benvenuti a Dedicato, mercoledì 17 aprile, oggi siamo qui in studio con un'amica, è un personaggio importante, quindi preparatevi, è amica, compagna di una vita, abbiamo fatto un sacco di cose bellissime insieme e lei ha fatto altrettante cose bellissime da sola, senza di me, questo mi dispiace, però è un'artista, quindi la presentiamo subito, Mara Redeghieri, ciao Mara. Ciao, ciao a tutti e benvenuti alla trasmissione, grazie mille. Grazie a te di essere con noi, veramente, e io sono emozionatissima perché oltretutto non la vedevo da un po' di tempo, da prima del Covid, ci siamo sempre sentite telefonicamente ma non ci vedevamo dal vivo da un po' di anni e quindi adesso io partirei subito con la prima domanda, Mara, così andiamo dirette al punto, che è un po' la tua crescita, no? Quindi da Just Mamò, che parliamo di ormai 30 anni fa. Fino a oggi, 2024, come è cambiata, come si è evoluta Mara Redeghieri, che cosa hai fatto e adesso anche cosa ci proponi e cosa ci prometti di fare per il nostro futuro musicale, quindi lascio la parola a te. È difficile rispondere velocemente a questa domanda. No, non velocemente, no, perché dai. 30 anni di storia sono lunghissimi, lo so. Non mi sembra neanche vero, e invece sono 30 perché Just sono usciti con il primo album nel 1990, era il 1900, il lontano era lontano, 1990, e questi 30 anni hanno galoppato per me, soprattutto perché chiaramente gli anni passano sempre più velocemente e all'orlo dei 60 passano molto molto velocemente. Però sono super felice di aver dedicato questi 30 anni di vita alla musica. Questa è la cosa di cui vado più fiera, insomma. Ne siamo molto felici anche noi che tu l'abbia fatto, perché ci hai veramente cambiato il punto di vista musicale da un po' di anni. E questo grazie a voi e grazie agli ascoltatori, a tutte le persone che hanno creduto anche nei nostri minuscoli progetti, perché anche Just Mamò era partito, siamo sempre partiti dal minimo, ed è una cosa davvero, se tu mi chiedi cosa consigliare, io mi sento proprio di consigliare di partire sempre da zero, dal minimo, da un'idea meravigliosa ma piccolissima, che poi si espande come un bambino, insomma, no? È una cosa bellissima. Per cui Just Mamò è partito da un microbo. È partito da me che avevo le idee confuse sulla mia vita, perché avevo già 30 anni all'epoca, cioè adesso 60, allora 30. E a 30 anni le nostre generazioni, quelle le nuove di questo secolo purtroppo, non sanno ancora cosa fare. Spesso non sanno cosa fare. Io stessa a 30 anni, dopo una laurea, ad honoris causa, perché ormai non riuscivo più a laurearmi in lingue e letterature straniere, sono tornata a casa disperata, perché le scelte poi si fanno un po' così, insomma, da giovani non è semplice capire la tua strada. Sono tornata a casa all'orlo dell'insegnamento, perché poi ho insegnato inglese anche alle scuole medie per 30 anni, ma non ero assolutamente contenta della mia vita, insomma, no? Cioè sono tornata a casa un po' con la coda tra le gambe, dopo Bologna, dopo 8 anni gloriosi di Bologna, perché sono stati tutti gli anni 80 che ho passato a Bologna, che sono stati furiosi, cioè proprio. Poi quindi tornare nel mio piccolo paese in Appennino mi era costato parecchio. E un giorno, per caso, incontro un ragazzo che mi chiede se voglio cantare con lui, era Ezio Bonicelli, il nostro violinista 19enne, un po' tronco, devo dire, in quella mattina. E quindi, cioè, le cose sono nate tutte per intrecci casuali, ma anche per grandi necessità, che erano quelle di fare qualcosa di più, cioè di non accettare la vita quotidiana nella sua disperata essenza, ma di cercare di essere più creativi, più alternativi, di non pensare che comunque la vita potesse avere un solo canale. E per cui abbiamo avuto dopo diverse fortune. Noi siamo partiti gloriosi ugualmente, io, Luca Rossi e Ezio Bonicelli, avevamo già alcune stesure pronte e una sera magica abbiamo incontrato in un concorso musicale Quota 2000, ed era alla fine dell'89, abbiamo incontrato Giovanni Ferretti nella giuria. Per cui da lì, è per quello che dico, partire sempre nel piccolo e poi comunque le cose prendono i loro piedini e camminano. E quindi così, noi nell'89 abbiamo fatto questo concorso di gruppi di base, si chiamavano gruppi di base, sia dell'Appennino che della Pianura Padana, eravamo in 12-13 gruppi e Giovanni Ferretti ci ha fatto vincere il concorso. E il giorno dopo ci ha chiesto se avevamo un album pronto. Beh, avete vinto decisamente, meritatamente, perché poi Usmamò era un progetto bello, veramente, anche musicalmente molto interessante in quegli anni, perché insomma, fra le varie proposte che c'erano, diciamo che spiccava a livello di interesse musicale, di crescita, no? Di noi musicisti, anch'io ero già una piccola musicista, sì. E quando vi sentii per la prima volta dissi, cavolo, questi sono avanti, anni luce, rispetto a quello che è la proposta musicale degli anni 90, no? Quindi da lì direi che sei partita molto bene, insomma, sei partita in quarta, come si dice. Siamo anche un po' inconsapevolmente, ecco, perché è chiaro che avere un mentore e una persona dietro come Giovanni e come Massimo Zamboni ha fatto la differenza, perché loro erano già al decimo anno di CCCP e non ti dico, cioè nel senso avevano già cavalcato parecchio, per cui avevano anche tanti consigli da darci. Sono stati preziosi per noi, che però avevamo già delle cellule importanti, insomma. Ecco, poi venivamo dall'Appennino, eravamo tutti e tre montanari, con molto dialetto nelle vene da spendere, e gli anni 90 sono stati anche molto generosi con questo tipo di esperienze. Cioè quelli che hanno voluto veramente cavalcare l'onda indie alternativa sono riusciti a fare parecchio. E invece com'è successo che Mara Redeghieri è uscita da Usmamò e è diventata solista e ha iniziato progetti meravigliosi, perché sei andata avanti altrettanto bene, direi? Dopo lo scioglimento degli Ust le cose si sono diventate più difficoltose, perché io mi sono dovuta chiedere, allora, alla fine della mia carriera pop, perché mi sentivo cantante pop, alla fine lo ero diventata, e ti dico, non me ne vergogno, insomma, comunque alla fine gli ultimi dischi Usmamò tendevano verso il pop anche di alta qualità, comunque. Appunto, no, infatti non c'è per niente cui... di cui vergognarti, perché il pop fatto bene, anzi, è più difficile di molti altri generi, perché di solito il pop è fatto male. Sì, è fatto in maniera disastrosa, per cui noi comunque ci eravamo spostati verso un'ala del pop. Sai, poi andava di moda anche in quel periodo il trip hop, i Massive Attack, cioè noi abbiamo sempre avuto delle luci molto alt Portishead, ti dico, cioè musica elettronica e voce mescolata, ma gruppi alti comunque. Però io comunque ho lasciato gli Usmamò con una nostalgia, perché dentro gli Usmamò c'era anche il seme della discordia, il seme della ribellione, il fatto che noi eravamo nati in un Appennino partigiano e che la metà dei nostri amici erano anarchici, molto molto sinistroidi e molto ribelli. Per cui i miei maestri, non solamente Giovanni e Massimo che ci hanno dato un imprinting, sono stati anche altri maestri. E si è fatto vivo, dopo lo scioglimento degli Usmamò, il mio mentore per eccellenza, che si chiama Benedetto Valdesalici, ed è il papà del nostro giovane musicista Lorenzo Valdesalici, con una nuova regola, cioè con la regola dell'approfondimento della musica popolare, ma vera musica popolare. Cioè lui mi diceva, tu hai imparato a cantare su dei nastri, però non sai cantare gli stornelli. Però non sai cantare il maggio, non sai cantare le nostre tradizioni. Quindi non sapendo, cioè ti manca una fetta di torta, ti manca la fetta dell'Appennino che canta, ti manca un approfondimento che riguardi sia la musica popolare che la musica di ribellione, di rivoluzione. E quindi concluso con gli Usmamò ho avuto diverse proposte da gruppi un po'... di proposte te ne arrivano, ma mai così, diciamo, effervescenti da farmi invogliare di nuovo. Ho passato 6 o 7 anni di silenzio e sono uscita nel 2009 con un documentario dedicato alle tradizioni popolari dell'Appennino reggiano, e che si intitola Alcusna, dedicato alla nostra cima più alta, dove approfondisco attraverso gli insegnamenti di Benedetto e anche altri musicisti che mi hanno aiutata, soprattutto anche i documentaristi Ethnos di Bologna, approfondisco le tradizioni cantate dell'Appennino reggiano. E lì mi riallaccio alla tua cultura e alle nostre sì. tradizioni, certo. Ascolta, vogliamo mandare un primo brano? Io direi mandiamo un brano degli Ust'Mamò come primo. Assolutamente, assolutamente. Hai scelto qualcosa che ci vuoi far ascoltare? Direi soprattutto Cento pecore e un montone, che parla appunto del fatto che noi deriviamo e siamo nati tutti pastori. E in Appennino comunque la maggior parte dei nostri contadini e degli abitanti dal 1500 in poi erano tutti pastori. Per cui Cento pecore e un montone è dedicato alle persone forti, alle persone che reggono a casa loro e anche alla pastorizia, che è stata la vita che c'era prima di noi. Bentornati in studio, siamo qui con Mara Redeghieri, abbiamo appena ascoltato gli Ust'Mamò con Cento pecore e un montone e ritorniamo a parlare con Mara adesso di un periodo storico che mi tocca proprio da vicino, perché è il momento in cui noi ci siamo conosciute, Mara. Era il 2010, giusto? 2010. Sì, ci siamo sì. conosciute perché li abbiamo invitati a XM24 con un concerto, oltretutto mi ricordo meraviglioso, perché insomma noi aspettavamo Mara come ragazzini aspettano la loro star e lei ci ha accolto con baci, abbracci, amicizia, beviamo un bicchiere di vino insieme. Noi ci aspettavamo invece di trovare un personaggio da alberghi di lusso, poi abbiamo conosciuto Mara e abbiamo detto cacchio, ma è una di noi, e come canta, cioè siamo rimasti tutti sbalorditi. Da lì non ci siamo più lasciate, perché era impossibile. Questo progetto che portò a XM24 era Dio Walzer, giusto? Sì, sì, Dio Walzer. Dio Walzer, che già il titolo... Già il titolo parla del mio mentore, cioè del secondo. Sai che io sono sempre... I capitoli della mia vita sono sempre stati segnati da grandi maestri. E Benedetto Valdesalici... È il secondo mentore. È il secondo insieme... Guarda, no... Lo metto per primo, perché comunque lui è sempre stato in testa agli Ust'Mamò e poi mi ha seguita anche durante tutta la mia successiva carriera. Dio Walzer è una sua idea, è un'idea di Benedetto. È stata parallela al suo suggerimento di approfondire sia il canto popolare che quello di rivoluzione. E una sera d'inverno del 2010, io e Lorenzo, suo figlio che aveva 13 anni e stava finendo le scuole medie, non sapevamo che cosa suonare, perché Lorenzo stava imparando a suonare la chitarra eravamo abbastanza annoiati e un po' depressi e Benedetto ci ha suggerito di cominciare a suonare delle canzoni anarchiche. Quindi noi abbiamo cominciato nel 2010, io e Lorenzo, voce chitarra, lui tredicenne, già alto 1,82 m, ad approfondire insieme a Benedetto lo studio dei canti anarchici. E da lì è nato Dio Walzer in una seduta di studio di registrazione. L'abbiamo registrato in un giorno. Così, secco. Buona la prima. Nello studio degli Usmamò. Per cui c'era, era tutto intrecciato. E dopo Dio Walzer arriva Recidiva invece, giusto? E dopo in mezzo, ecco sì. Allora, le storie sono andate in parallelo perché l'approfondimento dei canti anarchici e dei canti di rivoluzione ha corrisposto anche alla voglia di fare ancora un disco di musica pop, perché le sono rimasta molto affezionata ed è un po' il segno dei nostri tempi, insomma. Certo. Che volevo sperimentare, vedere se era possibile ancora con una nuova formazione, cioè con nuovi musicisti, con un nuovo produttore, Stefano Melone, approfondire anche il livello della mia scrittura e cercare di scrivere ancora un disco che mi rappresentasse. E Recidiva mi rappresenta perché parla delle mie malattie, purtroppo, perché tutti si ammalano, tutti ci ammaliamo e vogliamo guarire. Certo. E quindi sì, Recidiva esce nel 2017 dopo un sacco di tempo di preparazione. Ci è voluto veramente una vita. E invece Dio Walzer e Atanadarà rappresentano l'approfondimento rivoluzionario, e dentro Atanadarà compare la vostra collaborazione, la tua collaborazione, maestra del coro XM24. Ecco, che questo è il coro dell'XM24 è veramente un coro anarchico, a parte che ha già cambiato nome 40 volte, ora non vi so dire come si chiama in questo momento. Però esiste ancora, a tratti insomma si manifesta in giro, ma in quel periodo effettivamente Mara ci chiese di collaborare a questo disco, a Atanadarà, cantando parti di alcuni canti anarchici veramente arrangiati poi molto bene. È venuto un disco, una chicca come dico io, e poi ci ha portato anche suo malgrado in tour con lei in alcuni luoghi. Per fortuna non abbiamo fatto tutto il tour, perché sennò impazziva secondo me Mara e i suoi musicisti, però in alcuni punti chiave, io mi ricordo questo 25 aprile bellissimo che abbiamo fatto insieme, siamo andati addirittura in tour con Mara con il coro, quindi è stato veramente un periodo bellissimo. Sì, poi glorioso. Poi dopo vabbè, ci ha bloccato il Covid, ma questa è un'altra vita. Noi adesso non ne parleremo assolutamente. Anzi, vogliamo mandare un brano da Recidiva. Mandiamo da Recidiva. Ecco, la mia scelta corrisponde ad Anni Luce, perché dentro Anni Luce ho voluto riassumere che cosa mi è costato vedere Benedetto che si ammalava, e dentro Anni Luce c'è una fotografia che io ho voluto scrivere e di cui vado veramente tristissima e fierissima di quello che può succedere se una persona si ammala, e tutti lo dobbiamo sapere, cioè tutti dobbiamo sapere che cosa vuole dire avere il proprio corpo che non corrisponde più alle proprie necessità. Anni Luce è per lui. Ascoltiamola insieme. Ciao Benedetto. Stringimi le mani, sai, non ricordo più di noi. Prova a raccontarmi bene quando e con chi eravamo a quella festa. Parla della nostra vita, questa casa e le tue dita, intrecciate forte dentro a quella foto dove noi sorridevamo. Alberi e fiori mi paiono identici, e animali fruttando nell'aria sanno l'odore, la voce conoscono, albe e tramonti mi spiegano il senso del tempo che dentro di me consuma ancora un'istanza. Cerco le parole per che non c'è ragione cose che non so più dire. Tele di ragno sul muro, le immagini scorrono visi e contorni a memoria. Vene che pulsano dentro le nuvole, sento arrivare il fragore violento del vento che dentro di me consuma per un istante. E non ho parole per spiegare che non c'è. Eccoci tornati in studio con Mara Redeghieri, per chi non ci stesse ascoltando prima. E allora Mara, io direi, visto che prima di questo meraviglioso brano ne abbiamo parlato proprio così della nostra collaborazione, se sei d'accordo io manderei un pezzettino dell'Inno delle Barricate, che è un brano importante, un coro anarchico, cantato insieme a te dal coro dell'XM24. Quindi sì, io manderei questo pezzettino al volo, che dura poco, e poi ci ritroviamo per parlare un attimo e dirci le ultime cose. Perfetto, perfetto. Un bacio a XM24. Prova la fronte sotto il peso del lavoro, piegato a corda e lo scudiscio del potente, purché la gioia dia chi vive nell'oro. Senza di mani il lavoratore morente, sente il dolore di una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramento al promessa, sulla terra del dual, tutti pronti a morire alla luce del sole. Di che innalzerà le barricate, Mara, è la nostra storia. Ci toccherà. Beh, ci è già toccato. Ci è già toccato. Ma noi perseguiamo questi obiettivi sempre. Allora, ci sono ultime cose che ti vorrei chiedere, no? Abbiamo fatto questo excursus della tua storia artistica e creativa e arriviamo oggi con bellissime collaborazioni anche. Erika il cane, che io oltretutto conosco, quindi insomma stimo tantissimo, e adesso ci racconti un attimo, perché poi il prossimo brano che mandiamo è proprio inerente all'argomento, quindi lascio la parola a te e poi vogliamo sapere i tuoi progetti futuri. Beh, allora, dentro a Dio Valzer e Altanadarà sono successi dei miracoli, delle meraviglie. Cioè, i miracoli che uno vorrebbe che succedessero non succedono mai nel posto dove vorrei che succedessero. E dentro Altanadarà è successo il miracolo dell'XM24 in coro a Correggio, che nessuno si dimenticherà mai, nel teatro di Casal Grande, che nessuno si dimenticherà mai. Cioè, tutti quanti parlano solo di quello, di quando ci vogliamo ricordare queste meravigliose cose. Metto anche dopo XM24 un'ulteriore meraviglia, cioè Erika il cane e Bastardiglia, la sua compagna, disegnano la copertina di Altanadarà e costruiscono un meraviglioso video in stop motion del Megat, che è uno dei brani di Altanadarà, ed è un brano che noi abbiamo ripreso da Ivan Della Mea, che l'aveva già scritto in dialetto milanese, e a noi era stato chiesto di tradurlo in dialetto di Villa Minosso, per cui tutti i miracoli sono successi intorno alle canzoni di rivoluzione. Dio Walser e Atanadara hanno portato fortuna e sono 13 anni, 14 con questo, che noi lo portiamo avanti. In questo momento si intitola Futura Umanità perché faccio letture e canto di rivoluzione, mescolo tutto, però sono 14 anni gloriosi che io, Lorenzo Valdesalici e Nicola Bonaccini al contrabbasso portiamo in giro i canti di rivoluzione. Fantastica questa cosa, grandi ragazzi, salutami i tuoi musicisti che anche loro è una vita che non vedo, ma sono musicisti ragazzi da caponare la pelle, quindi bravissimi. E bisogna fare i complimenti anche a loro. Grazie, perché, sì, assolutamente. Perché la nostra superstar è qui con noi, ma anche i suoi musicisti. Se non ci fossero sarebbe un disastro. È vero. Quindi per il futuro... Allora, ho due sogni ancora, due. Mi piacerebbe dedicare un lavoro a mio padre, perché voglio chiedere scusa alla mia mamma. Prima chiederò scusa alla mia mamma, ma poi vorrò parlare di mio padre, perché ce l'ho addosso. Me lo sento dentro e voglio che parli lui proprio, cioè sento la sua voce che mi esce, per cui non so come e non so come farò, però devo assolutamente rendergli onore. Bene, questo ti aspettiamo. Guarda, mandiamo l'ultimo brano che è il Megat, sì. Direi, e consigliamo anche di andare a vedere il video, quindi di Erika il cane è... Bastardiglia. Ilangata jaka in mezzo a io. Gli occhi ierne rus e un po' arbla e mi piacere sapere chi è che le sta a sbudla me gat in mezzo ai pra le raxi bel e xi da stus nigre e bianc propria na plaza sacca a poi Bene, beh, siamo arrivati, Mara, al momento dei saluti a questo punto, quindi devo dire che mi dispiace, però devo altrettanto dire che, beh, essendo ora di pranzo, noi ci concederemo un fantastico pranzetto insieme. Quindi, ci vuole. E ci vuole anche quello, quindi direi che noi salutiamo Mara Redighieri, ti ringraziamo. Grazie a voi. Davvero. Grazie Erika che sei rimasta... una perla proprio della mia esistenza e non è un caso che io sia venuta proprio a casa tua a fare questo lavoro perché avevo mille voglie di rivederti e di continuare a sentire quello che stai facendo. Quindi grazie per il tuo lavoro, davvero grazie e anche a tutti gli ascoltatori a Radio Fujiko che ci ospita. Grazie a te, la nostra casa è la tua casa, lo sai. Quindi un abbraccio, ci risentiamo direi Mara entro fine anno, così vediamo come procedono i progetti. Vuoi lanciare qualche data di concerti dove possiamo vederti? Guarda, l'unica che mi ricordo in questo momento è un 25 aprile a Montefiorino, che è vicino a casa nostra nella provincia di Modena, dove noi faremo Futura Umanità dedicata alla Repubblica di Montefiorino. Perfetto, bene. 25 aprile con Mara Redighieri. Ciao, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!